Bene, abbiamo tre quarti d'ora per dialogare con Duilio. La parola di Dio, ha detto Penelosso, ma qual è questa parola? Cioè noi siamo legati al concetto della ispirazione della Bibbia, però io attualmente non so distinguere ciò che è l'ispirazione da ciò che non è ispirazione. Per me l'ispirazione è quello che non contraddice ai principi fondamentali del nostro credere. Invece non è ispirazione, c'è ciò che contraddice questo. Per esempio, leggendo l'Antico Testamento, ci sono varie espressioni che io non posso citare, come le stragi, o l'uccisione dei fanciulli e tante altre cose, che secondo me, almeno il concetto che mi sono fatto, non sono assolutamente ispirati, ma sono frutto semplicemente di una mentalità di chi l'ha scritta. Per cui la mia incertezza è nel distinguere tra ciò che è parola di Dio e ciò che invece non è ispirato. E quindi non ho la padronanza di questo criterio di determinazione dell'ispirazione della parola. E non so se tra i vari interpreti, tra i vari teologi, c'è questa distinzione nella lettura della Bibbia tra ciò che è ispirato e ciò che non è ispirato. Ma dunque, intanto una prima cosa che bisogna tenere presente è che la Bibbia contiene dentro di sé la vita in tutte le sue espressioni, e nella vita non c'è solo, come dire, ciò che immediatamente ci sembra positivo, no? Ci sembra buono, ci sembra giusto. Nella vita c'è anche ciò che è esattamente il contrario di ciò che ci appare come positivo, giusto e buono. Sarebbe un grande errore quello di, come da qualcuno è stato proposto, quello di epurare, no, le pagine della Bibbia che immediatamente contraddicono a quello che può essere un nostro sentire di significato, di valore, di etico, no? Appunto per evitare di essere disturbati da questo, ma lo diceva anche Beauchamp, come abbiamo ricordato stamattina, no? Questo eccesso di violenza che troviamo in molte pagine della Bibbia, una violenza in alcuni casi appunto voluta da Dio, secondo la logica di quei racconti, in altri casi invece condannata da Dio, no? Per un altro tipo di logica di prospettiva. Quindi anzitutto la Bibbia va assunta così com'è, nella sua interezza, perché nella sua interezza va accolta la vita. Cioè, appunto, non esiste una vita dove sia tutto luminoso, così come non esiste una vita dove sia tutto buio. Ecco. La vita è fatta di moltissime sfumature. E così appunto anche la Bibbia. Questo non vuol dire però che ogni pagina della Bibbia è semplicemente equivalente ad un'altra. Tanto è vero che nel corso dei secoli si è posta la questione che nel Novecento poi è stata chiamata come la questione di un canone nel canone. Cioè, dicevamo appunto, la Bibbia è canone dell'esperienza credente, cioè è la regola fondamentale, no? Dell'esperienza credente. Però, appunto, giustamente, come diceva lei, ci sono pagine, ci sono racconti, ci sono sequenze della Bibbia che sarebbe ripugnante considerare parola di Dio, volontà di Dio. E allora ci vuole un canone, cioè ci vuole una regola che ci aiuti a fare discernimento della regola fondamentale. Ora, che cosa si è risposto? Da un punto di vista cristiano, io dico, si è risposto questa regola, questo canone nel canone c'è, ed è la persona di Gesù Cristo. Cioè una lettura cristiana della Bibbia è una lettura che utilizza come criterio di discernimento il rimando a Gesù, alla sua azione, alla sua predicazione. Cioè quello che è coerente con la figura di Gesù, con la sua testimonianza, è anche riconoscibile come parola di Dio. Quello che invece si discosta o addirittura contraddice la vita e la testimonianza di Gesù non può essere considerato parola di Dio, ma è appunto, come dire, è l'apporto di umanità, no? Che è contenuta nel libro biblico e che appunto, essendo umanità, può essere carica di positività, ma può essere carica anche di negatività. Ecco. E non ci può essere censura preventiva da questo punto di vista. Ci può essere però appunto la possibilità di un discernimento in nome di un criterio, diciamo, più alto, più grande, che da un punto di vista cristiano è fornito dal riferimento, come dicevo, a Gesù Cristo. Ecco perché, come accennavo anche prima, non è così facile leggere la scrittura. È richiesto davvero un accompagnamento, no? Una istruzione per l'uso, altrimenti il rischio di una lettura fondamentalista o di una lettura semplicemente così arbitraristica del testo è dietro l'angolo, ecco, nel senso, non so se è più chiara la questione. Immaginavo che nel rispondere al suo quesito avresti richiamato questo concetto, se ho capito bene, di Theobald, che parla di libro ispirante e di libro ispirato. Ti dico quello che ho capito io. Cioè, se il testo che legge è ispirante per me, cioè mi aiuta a promuovere mi sembra che tu dicessi, una forma di senso percepibile come arricchente per la mia umanità, per la mia umanizzazione, è ispirato. Se non fa così, Liliana, dimmi tu come risolvere il problema. Dico Liliana perché lei è molto, conosce molto bene l'Antico Testamento. No, faccio solo questa ribatto con questa osservazione. È vero che appunto è vero quello che dici e che dice Theobald, ma purtroppo ci sono persone che si lasciano molto ispirare da quelle pagine violente della Bibbia, però non sono uomini. Che si sentono arricchiti nel loro essere super uomini, addirittura Übermensch, no? Da questo tipo di lettura. Ecco perché ci vuole il riferimento all'uomo nuovo, no? All'uomo autentico che è Gesù di Nazareth. In qualche modo un canone nel canone del Primo Testamento viene ravvisato nelle 10 parole, le 10 parole dell'alleanza. E se appunto, per continuare a fare questo esempio della violenza prevaricatrice, una delle 10 parole è non uccidere, e quindi come è possibile che Dio chieda invece lo sterminio del nemico, se una delle sue 10 parole è non uccidere? Quindi dal punto di vista della scrittura ebraica, molto spesso, quelli noi chiamiamo i 10 comandamenti, ma loro preferiscono chiamare le 10 parole, fa le veci del riferimento a Gesù Cristo come canone nel canone, ecco, della scrittura. Comunque in generale vale quello che tu dicevi, no? Perché, però bisogna tenere conto anche appunto delle ambiguità dell'umano, purtroppo. Però riferendomi ancora a quello che diceva lui, secondo me c'è un po' una stonatura quando viene, per esempio durante la celebrazione, viene fatta una lettura dell'Antico Testamento che in qualche modo sentiamo che stride con l'insegnamento di Gesù, e però poi c'è al fondo parola di Dio. E sto parola di Dio che in qualche modo facciamo fatica alle volte ad accettare, perché appunto se per caso si parla di una strage o di un tradimento o di non so che cosa, ma sentiamo di tutti i colori, e allora no, ma è al chiaro. Fondo però sentir dire parola come dire di Dio sembra che ci sia, certo, una specie di contrasto. Ma a mio avviso è uno scandalo benefico. Ecco. No? Che intanto vuol dire che si è ascoltata la lettura. No? Cosa? Niente affatto. Niente affatto ovvia. Ecco. Secondo, vuol dire che a livello della propria coscienza si attiva in qualche maniera una sorta di filtro, no? Di discernimento, cioè, ma com'è possibile che questo sia parola di Dio? Eppure, appunto, bisogna lasciare anche quelle pagine, no? E bisogna dire che anche quello è parola di Dio, ma proprio perché Dio ci incontra così come siamo. Cioè, Dio si fa strada nelle nostre ambiguità, nei nostri chiaroscuri. Quei chiaroscuri che sono legati perfino alla storia della salvezza. Ed ecco perché parola di Dio non è mai un qualcosa di statico, un qualcosa di fissato una volta per tutte. La parola di Dio è legata ad una storia dell'alleanza col popolo ebraico, ma prima ancora alla storia di un'alleanza di Dio con l'Adam, cioè con gli uomini e le donne in generale. Dentro questa storia, ecco, però appunto Dio non ci lascia senza criterio, no? Di discernimento, e dentro queste storie la storia di Gesù Cristo diventa quella che costituisce, come dire, il principio di verifica, no? Di valutazione immancabile per discernere quando è parola di Dio e quando non lo è. Perché anche guardando i fatti che succedono al giorno d'oggi in Israele, a Gaza, io mi sono detta, ma scusa, le 10 parole valgono anche per gli ebrei, non soltanto per i cristiani. Anzi, sono prima di tutto. Prima di tutto. Sono prima di tutto. E appunto, fra le parole non c'è scritto anche non uccidere. Allora mi sto chiedendo... Però, come dicevo prima ad Andrea, gli ebrei ultraortodossi sono molto interessati invece a valorizzare quelle pagine dell'Antico Testamento dove si parla dello Herem, dello sterminio, come volontà di Dio, perché appunto il popolo eletto sa che Dio è con lui e chi è contro di lui è contro Dio. Ecco. Come dire, la perversione, no? Della religione, la perversione della fede. Eppure nella Bibbia c'è anche questo, e dovremmo essere grati che ci sia anche questo, perché appunto vuol dire che nella Bibbia c'è la vita, così com'è, nella sua bruttura, così come nelle sue bellezze. E Dio ci incontra lì, ci dà appuntamento lì, non ci dice devi uscire fuori da lì per incontrarmi. Poi una volta che mi hai incontrato davvero, allora dovresti anche convertirti. Ecco. Però io non ti chiedo di essere perfetto per potermi incontrare, perché io ti incontro lì dove sei tu, nelle tue ambiguità, nei tuoi chiaroscuri. Ecco. E poi, quando ti incontro, ti chiedo di starci ad un processo di trasformazione, ecco, in quel senso. Ma no, per chiudere l'argomento... Sì. Un laico, ammesso che si possa chiudere questo argomento, un laico potrebbe insistere dicendo questa è parola dell'uomo, parola degli uomini con tutti i suoi limiti, certo, le sue debolezze, ispirata a Dio, E quindi qui ci sarebbe la possibilità che questa ispirazione sia un po' troppo umana piuttosto che divina. Comunque sì, no, ma appunto, è un argomento, certo, ma impossibile. Forse è ancora interessante fare riferimento a questo. Fortunatamente nella prospettiva cristiana si è sempre fatto resistenza ad accettare quella che in genere viene chiamata la concezione verbale dell'ispirazione, cioè l'idea dell'ispirazione come Dio che detta nell'orecchio dello scrittore, parola per parola, il testo sacro. Ecco, nella tradizione cristiana si è sempre fatto resistenza rispetto a questa immagine dell'ispirazione, che invece rimane, ad esempio, quella, tra virgolette, ortodossa del Corano. Appunto, il Corano è dettato parola per parola a Maometto, e siccome è dettato in arabo, dovrebbe essere letto solo in arabo, perché quella è la parola di Dio, non la sua traduzione. C'è sempre stata una grossa diffidenza nell'ambito islamico sui processi di traduzione, perché appunto la parola di Dio è la parola araba, scritta nel linguaggio arabo, non un'altra. Mentre invece, anche lì, nell'ambito cristiano, la traduzione si è fatta avanti quasi fin da subito. Ma a proposito di questo, c'era un po' la scelta fra chi dice al termine della lettura è parola di Dio e come invece prevede la liturgia di dire semplicemente parola di Dio, che io intendo, cerchiamo qui una parola di Dio, che però non è direttamente il testo che abbiamo letto, ma una ricerca che dobbiamo fare, perché Dio attraverso questo racconto che di uomini, di tempi, ci vuole dire qualcosa. Certo. E in qualche modo certo. La riflessione su questa, anche su questi testi così che ci può portare a incontrare una parola autentica, anche così come riusciamo poi a coglierla, certo. Perché magari capiamo tutto roba per Toma lo stesso, ma però è un invito a cercarla, è abbastanza interessante anche quello che tu dicevi, che così la Bibbia non è che sia un trattato che ti dice adesso ti racconto com'è la vita, si fa così, così, così, bene ragazzi, mettetevi in fila e fate, no? C'è tutta questa congerie di robe varie, certo. E in questa storia fatta di tante storie umane, parole umane, eccetera, si incrocia in qualche maniera misteriosa, qualche volta con degli spazi più visibili, molte volte in modo più difficile da cogliere, una specie di colloquio, che però è una scoperta anche da parte di questi popoli antichi che pian piano evolvono, perché non c'è mai niente di preciso, no? Cioè, c'è una storia, poi c'è un'altra che contraddice magari quella di prima, però la storia va avanti, ma è anche della nostra vita. Va avanti, poi si torna indietro. Magari ci sembra di capire una cosa, poi dopo un po' lo rivediamo, ma accidenti, no, adesso mi sembra di aver colto quest'altra cosa. E, concludo solo questa, sono completamente d'accordo con quello che dici, appunto è tutta la fatica di leggere lo sta scritto cercando di ascoltare la parola di Dio che attraverso quello sta scritto mi raggiunge. E quindi la capacità di distinguere anche fra lo sta scritto e la parola di Dio. No? Giustamente qualcuno dice la Bibbia contiene la parola di Dio, non semplicemente è parola di Dio, anche perché da un punto di vista teologico ma anche neotestamentario, parola di Dio è Gesù Cristo, è il Figlio, non è un libro, immediatamente. Gesù è la parola di Dio. Poi appunto la testimonianza di Gesù, è messa per iscritto a sua volta, non a caso Gesù non ha scritto nulla, uno dei pochi casi di fondatore, no, di fondatore religioso che non scrive nulla, e non di meno appunto lui diventa il criterio principale di discernimento per cogliere nello sta scritto la parola che ci raggiunge. Perché noi tra l'altro, poi ti do la parola, noi tra l'altro nell'intitolare, no ma è il tema, nell'intitolare gli incontri di quest'anno avevamo scritto le scritture ebraico-cristiane nelle quali crediamo essere presente una parola di Dio, possono davvero offrirci sprazzi di luce e di speranza per il nostro incerto camminare? Nelle quali crediamo essere presente una parola di Dio. Prego. Ma quello volevo dire adesso, tanto ci sono dei fatti, tutto il contrario del bene, diciamo. Il fatto di Tamar che diciamo fa la prostituta praticamente per avere un figlio, è una cosa tutta, diciamo, al contrario del bene. Però il fine è di continuare questa genealogia di Gesù. Ecco, quello, no? Tamara è una... Certo. Diciamo, continua la genealogia quando... È tutto il contrario del bene, no? Certo, ed è iscritta nella genealogia di Matteo, che è riferimento a Tamara. Sì, per Gesù, ecco. Per dire che ci sono dei fatti negativi, certo, che però hanno un fine ben buono anche. No, appunto, dentro quel chiaroscuro Dio interviene e lavora dal di dentro perché appunto ci si possa sintonizzare sulla sua volontà autentica, ecco, in questo senso. Quindi, noi leggiamo la genealogia di Matteo come se fosse un elenco del telefono, un elenco telefonico. Ci sono invece delle cose che dovrebbero far strabuzzare gli occhi, una è questa, ma tutte le donne presenti in quella genealogia hanno dei problemi sulla morale matrimoniale. Sì, quella è il peggio. E questo perché? Perché quella genealogia deve introdurre il racconto di Maria che si ritrova incinta senza aver conosciuto uomo, ecco. Cioè, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, ma non... Nel senso che delle belle figure. No, certamente. Ma il problema di Matteo, appunto, è che si contesta a Gesù di essere senza padre, cioè di essere nato al di fuori di un'unione legittima dal punto di vista ebraico. E quindi questo farebbe di Gesù un bastardo. Ma lo è, secondo me. Perché se togliamo questo, allora togliamo tutto, allora tutto diventa relativo. No, però appunto, a me sembra che queste disquisizioni in cui ci siamo incamminati siano, non dico pericolose, perché anzi sono feconde, perché ci fanno capire la nostra ignoranza. E qui spero che ci siamo venuti anche per sciogliere un minimo di ignoranza. Io sono curioso e siccome mi riconosco talmente ignorante che non so nulla, ogni cosa che ascolto mi insegna. Ora, mi sarebbe piaciuto però poter continuare stamattina quel discorso introdotto stamattina, in cui sembrava che la scrittura, finalmente, nella cultura mondiale, nella mentalità della nostra epoca, sia un testo classico come lo sono quelli, ma come sono tutti i testi classici. Se andiamo per quella strada, ci troveremo a delle contraddizioni che adesso sono fiorate, che si sono fatte queste affermazioni sulla legittimità del canone. Io vi direi una cosa, come l'ho sentita io. Io sono uno che ha studiato anche un po' i classici. Soltanto, avendo poi frequentato le parrocchie, la Bibbia non era un gran classico. Quella era un finimondo, era qualcosa di fuori, di incomparabile. E quello bisogna crederci perché è parola di Dio. Quando sono diventato più grande, l'ho riflettuto e ho cominciato a capire che la Bibbia poteva essere, specialmente da chi non ha fede, chiamiamola cristiano-cattolica, poteva essere considerata un grande, stupendo, forse il maggiore classico dell'umanità, allora ho detto, allora ci possiamo studiare qualcosa, possiamo avvicinarci. E tant'è vero che la ricerca biblica che viene valorizzata dai non credenti ci sta rivelando delle verità, chiamiamole verità, non chiamiamole di fede, dogmatiche, ci sta rivelando delle cose che sono, secondo me, proprio fecondissime, come lo si dice, fecondere, non lo so neanche, per esasperare, sono feconde proprio per gli uomini che vogliono aderire alla fede. Allora, questa fede da dove ci viene? Ci viene dalla lettura delle scritture secondo l'interpretazione della vita di Gesù, di Nazareth, il quale ha detto, i profeti vi hanno detto, i comandamenti vi prescrivevano, io vi dico e vi dice il contrario di quello che dicevano loro. Strano, no? Allora, per me questo canone nuovo, questa cosa dovrebbe essere interpretare oggi cosa farebbe Cristo di fronte ai quesiti e alle scelte dei vivi. Ma è esattamente quello che dicevo io parlando del canone nel canone. Cioè il canone nel canone è Gesù Cristo. Delle cose che secondo me sono disquisizioni, tant'è che questi autori francesi, secondo me, sono ancora imbevuti di questa tradizione, diciamo, del magistero della Chiesa, e in qualche modo cercano di equilibrarlo con l'umanesimo attuale. Secondo me questi sono testimoni sinceri, secondo me, e anche acuti di quella situazione in cui ci stiamo dibattendo, anche oggi, culturalmente. Quindi in questo dibattito... Mi fa alcuni esempi di autori a cui si riferisce? Come... Sì, i due autori, quelli che... Ah, questi che abbiamo... Sì. Sono nuovi. Ah, ecco, sì, non e penso... Mi fa piacere che sono degli autori che, pur radicati nella tradizione, e quindi della tradizione del magistero ecclesiastico, però aprono a queste cose. Però, allora a questo punto vi dico, Don Giovanni Giorgis, quando venne a parlarci le prime volte di problemi biblici, aveva già superato queste contraddizioni. Cioè, non aveva, aveva già aderito, per esempio, alle ricerche di Maggi, certo, di padre Maggi, e quindi a me oggi, dal punto di vista anche esegetico e della critica testuale, mi sembra che i miei amici francesi, che io ammiro molto perché sono francesista nella letteratura e nel teatro, mi sembra che non ci apportino quelle grandi verità o quelle grandi novità. Ecco, se si potesse tenere il discorso sul merito di quello che abbiamo ascoltato stamattina, preferirei piuttosto che sul vago dell'interpretazione delle sacre scritture, che queste secondo me ci accompagneranno per l'eternità, per fortuna, perché Gesù sarà sempre una contraddizione tale che fra millenni, se ci sarà l'umanità, si troverà di fronte a decidere se fare la guerra, e allora vedremo anche cosa avrebbe fatto Gesù nel confronto della vendetta che Israele, che ha conosciuto gli orrori del suo olocausto, li sta perpetrando verso altre persone. Quindi, Mario, hai alzato la mano? Sì, sei alzato da solo. volevo osservare, mi viene in mente una citazione di Marcherà, che conosce perfettamente, e riguarda i fratelli di Gesù. Se noi andiamo a prendere Ricciotti, che è un testo del 41, parla di cugini di Gesù, perché dice che in ebraico i cugini sono come i fratelli, però in greco invece le due cose sono ben differenti. Ora, se non ricordo male, Marcherà cita quattro fratelli di Gesù e tre sorelle. La storia è cambiata, dal 40 all'80, in 40 anni. Certo. Si è stata capovolta. Abbiamo acquisizioni da parte degli apocrifi che in qualche modo, in certi casi, anche lì si può interpretare qualche cosa. Cioè la scienza e la storia apportano di continuo nuove informazioni. E questo mi sembra un fattore importante, perché è vero che relativizza un poco il concetto di assoluto, però dà informazioni all'interpretazione, a mio avviso. Basta. Sì, no, certo. A dire che si pongono anche in base al progresso, alla successione delle varie epoche, domande diverse. Quindi il testo parla in modo diverso a seconda dei periodi, così come diceva prima Don Giulio Barello, dice, quando si è tradotta la Bibbia, l'Antico Testamento, anche lì c'è stato un adattamento alla nuova cultura, perché bisognava farsi capire da quella, da chi parlava un'altra lingua, e quindi si è stati indotti a un ripensamento, a una modernizzazione. Io penso che ogni epoca ha delle domande diverse da porre. I punti, quindi anche l'interpretazione biblica è molto complessa. Non si può, diciamo, non è una, si può affrontare da parecchi punti di vista, così anche come il testo che ci è pervenuto è un frutto di una selezione, di qualcuno, di istituzioni che si sono affermate e che hanno scartato altre linee di pensiero, perché c'era effettivamente una ricchezza anche nel mondo ebraico e una serie di tendenze, alcune sono sopravvissute marginalmente e oggi gli storici danno importanza a queste per la conoscenza storica. E poi ci sono quelle che sono state, per così dire, approvate dalle istituzioni. Quindi, voglio dire, c'è una grande complessità. Anche non possiamo considerare anche il testo biblico come qualcosa di fisso. Io parlo soprattutto per l'antico. È qualcosa che di molto dinamico, che si è evoluto dinamicamente e soprattutto che si è fissato in un certo momento perché è sopravvissuta una linea di tendenza, ma c'erano molte altre. Quindi, voglio dire, sono temi, dal mio punto di vista, molto delicati. E poi c'è anche lo sviluppo della propria sensibilità, una sensibilità critica che si va maturando, porterà sempre degli apporti nuovi alla lettura. È chiaro che se io sono cristiana e credo in Gesù Cristo, quello sarà il mio punto di riferimento, però penso che un ebreo onesto e non un ortodosso, voglio dire, ultra ortodosso, avrà le sue avrà un suo percorso autentico, dei punti di riferimento autentici, così come penso che oggi anche il mondo ebraico non sia tutto concorde con la scelta di Netanyahu o con la scelta degli ortodossi, è molto diviso il suo interno. Così come ci sono degli ebrei che vedono in Gesù addirittura un ebreo radicale, cioè le posizioni sono molto articolate, quindi è molto difficile, voglio dire, porsi dal punto di vista canonico. Io penso che ci voglia una certa libertà, soprattutto per i cattolici, che sono stati per troppo tempo sotto una forma di controllo, e ancora adesso a me spiace dire che io trovo, per esempio nella mia parrocchia, che sono più autorevoli i catechisti di quanto non sia un lettore della Bibbia che voglia fare una critica seria. Cioè, se la lettura della Bibbia contrasta con il catechismo, ecco che insorge il catechista, lo dico un po' brutalmente, perché vengo da un'esperienza di Vangelo nelle case, dove effettivamente, cercando di scoprire il senso di un testo, il catechista poi insorge dicendo: ma questo non è il Vangelo nelle case, perché il Vangelo nelle case è fondamentalmente ritrovare nel testo biblico il catechismo, oppure ritrovare il dogma. Secondo me questo è qualcosa che frena. la carriera, il progresso. Forse qui è infilato un po', no, no, un po' di cose un po' diverse, però oggi come oggi io sono molto urtata dal catechismo, perché vedo che ancora in molte parrocchie è la parola vincente, quella che è. E questo mi pare che tolga, ecco, parlavamo prima di bellezza della Bibbia, che tolga quel respiro, quel senso di bellezza che nella Bibbia invece c'è, al di là delle sue contraddizioni e ambiguità. C'è una parola liberatoria, un Cristo che libera ed è a sua volta libero. Questo è a me, per me è importante. Non solo libera l'uomo, ma è a sua volta libero. Cioè, io penso all'episodio ancora di Marco, dove tocca il lebbroso e quindi esprime una sua libertà verso la religione ufficiale, e nello stesso tempo è uno che porta libertà. Beh, insomma, ho detto un po' di cose, un po' di cose tutte pertinenti. Diciamo. Pensavo che dicessi qualcosa anche sulla ebraicità di Gesù. Ma lì ci vogliono gli esperti. No, c'è un ebreo americano che dice che addirittura è un ebreo radicale. No, io dico semplicemente, ero un ebreo come tanti altri, che aveva una sua posizione. Non era un fariseo, parlava coi farisei. Ma lì è una questione da esperti. Comunque io rivendico la sua ebraicità, perché insomma in fondo quando leggiamo il Nuovo Testamento come pregava, troviamo un sacco, quelli sono gli evangelisti che ci hanno messo. Però insomma non rinnegava la sua cultura, ha portato qualcosa di nuovo, ma non. Però senza contraddire assolutamente niente questa cosa dell'ebraicità di Gesù, che per me è stata anche una scoperta, se vogliamo, rispetto a... mi ricordo che ancora qualcuno diceva, ma è ebreo Gesù? Sì, è ebreo, proprio ebreo. Però un po' come per la mascolinità di Gesù, la sua ebraicità non è preclusiva, non ha proprio anche nella lettura scritta da ebrei su una persona ebrea, dice, però noi riusciamo a leggerlo oggi, noi che non siamo ebrei, che non siamo di quel tempo, incontrandolo senza avere l'impressione di leggere una roba che riguarda i marziani, che sono fatti così, sono loro, è tutto di loro, no? Cioè, c'è una sorta di superamento di quello che potrebbe essere una barriera etnica o religiosa, perché così come per la mascolinità, e sì, indubbiamente è un uomo, però non troviamo in lui, cioè, io faccio fatica, io come donna mi posso identificare tranquillamente con lui senza nessun problema, non, tenuto conto che era in una società patriarcale dove il maschilismo era molto più enormemente più intenso di oggi. Non si vede, quasi non si percepisce, non so come dire, non dà fastidio, non crea barriere, non mette così barriere all'incontro. Lo si può incontrare al di là di tutte queste robe. E questo è abbastanza sorprendente. Ma Daniel Margherà, prima citato, nel suo bellissimo libro Gesù di Nazareth, Vita e Destino, conclude proprio con questa frase, incatturabile Gesù. Incatturabile Gesù. Cioè, quindi certamente Margherà condivide quella che è la posizione della cosiddetta terza ricerca sulla vita di Gesù, cioè condivide il fatto che Gesù fosse pienamente inserito nella tradizione ebraica, però dentro quella tradizione rimane su molti aspetti incatturabile. La libertà di Gesù di cui si parlava prima, perché appunto avete inteso che fu detto, ma io vi dico. E in ogni caso un modo di leggere la Torah che si discosta anche da quelle che erano le letture, diciamo, più convenzionali, più scontate nell'epoca. Per cui, sì, la fede di Gesù è una fede ebraica, però è una fede che comunque mantiene una sua singolarità. E questo, ad esempio, un autore come Margherita, che non è interessato a nessuna apologetica di principio, no? Lo fa notare, cioè, lo indica come una caratteristica inaggirabile di Gesù, che in qualche modo richiama un suo carattere di unicità. E proprio perché è incatturabile è anche interpretabile, come dicevi tu, ecco, da parte nostra, senza avere subito l'impressione di avere a che fare con affermazioni che scendono da chissà quale altro universo, a noi alieno, ecco, a noi estraneo. Anzi, secondo me, questa è una mia idea personale, però penso che Gesù riesca, attraverso la parola, a parlare a ciascuno di noi. Cioè, se tu ti metti in un atteggiamento di ricerca e di ascolto, lui, attraverso le cose che sono scritte, che magari sono le più disparate, eccetera, però riesce a parlare alla tua vita, al momento che stai vivendo e ti dà, come dire, ti dà una luce, ecco. C'è anche scritto, no, che io sono la luce della vita, e secondo me è vero, nel senso che indipendentemente dai racconti, dalle cose, però sembra proprio, io ho avuto l'impressione molte volte che quella parola fosse stata scritta proprio per me, proprio per me, proprio per la mia situazione attuale, proprio per quella scelta, in quell'incrocio, in quel crocevia. In quel crocevia. E penso che questo sia, come dire, opera dello Spirito Santo, cioè in pratica non possiamo creare a Gesù delle barriere tali per cui lui non riesca a far sentire la sua voce a noi, a ognuno di noi. Anche il campanile approva. Vabbè, si ricorda. Anche il campanile approva. Siamo arrivati alle 4. Io penso che dobbiamo essere davvero di nuovo molto grati a Duilio, che ti ringraziamo davvero tanto, nonostante i suoi impegni come parroco, però ti chiediamo di privilegiare la riflessione teologica.